Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e sette minuti. E allora la settimana di borsa si chiude in un modo da un lato inatteso ma più che benvenuto: rialzi record per tutte le borse europee. Parigi più 8,5%, Francoforte più 5,6%, ancora Londra più 7,7%, mentre l'Italia guadagna l'8,2% sull'S&P MIB, il 7,8% sul MIBTEL. Rincari eccezionali che erano già iniziati questa mattina. Siamo a rialzi della singola giornata massimi dal 1987 nel caso di Londra, ma anche nel caso di molte altre borse europee. Dicevo che già in mattinata si era capito che la giornata sarebbe stata più che positiva, perché le borse asiatiche avevano chiuso con rialzi del 3,7% per quello che riguarda Nikkei, e ancora il 9,6% per quello che riguarda l'indice di Hong Kong, che è l'Hang Seng. Per quello che invece ha a che fare con il rapporto di cambio euro-dollaro, siamo a 1,44,34, quindi in recupero anche l'euro, con una conseguenza sul petrolio, ossia quando l'euro si rafforza anche il petrolio si rafforza, e il petrolio è andato a $103 al barile. Ma insomma, per dare la sensazione, il polso di quello che sta succedendo oggi in borsa, al di là di Finmeccanica che perde il 2,2%, ci sono titoli che, per carità, moltissimo erano calati in questi giorni, ma insomma Unicredit guadagna il 14%, Intesa San Paolo il 12%, la Popolare di Milano l'11,7%, il Monte dei Paschi l'11,3%, Geox il 9,5%, Mediolanum l'8,8%, Generali guadagna l'8,6%, come Ubibanca l'8% lo guadagna Fiat, il 7,80 è il rialzo di Parmalat e Tenaris, il 7,5 è il guadagno di Bulgari, Eni e Alleanza Assicurazioni. Sono cifre incredibili per quanto si venga da mercati e da un indice del MIBTEL, quindi della borsa italiana, che ha perso da inizio anno praticamente un 33% del suo valore. Ma insomma, sono rialzi fortissimi e ci siamo fermati ai titoli che guadagnano il 7%, perché potevamo continuare con Luxottica più 6,90, Alleanza più 6,90, Mediobanca più 6,7, il Banco Popolare più 6,5, il 6% lo guadagna anche Impregilo, Fondiaria, Atlantia e Seat Pagine Gialle, ma pure Pirelli ed Enel. Il 5,8 lo guadagna Mediaset, Saipem e anche Unipol. Dunque, viste le giornate e le puntate da cui veniamo, forse oggi è il caso di utilizzare un altro animale rispetto al nostro, al gufo che purtroppo ci ha accompagnato in questi giorni. Il gallo che abbiamo preso, devo dire, molto raramente purtroppo a utilizzare come suono delle giornate positive, delle buone notizie, dopo un rapidissimo e assolutamente inattendibile sondaggio che abbiamo svolto con voi al 349-238-6666, che resta il numero per i vostri SMS. E allora, una rondine non fa primavera, un gallo non farà un rialzo consistente dei mercati. Molta prudenza, molta cautela, visto che possono esserci anche movimenti tecnici che fanno guadagnare molto. Pensiamo insomma che c'è qualcuno oggi che con un investimento in un giorno ha guadagnato il 10, il 12, il 14, il 13%, ed è presto per dire che la crisi è alle spalle. C'è però un motivo di questi rialzi, non sono solo frutto di movimenti tecnici, e il motivo si chiama notizie e scelte arrivate dall'America. Questo sarà il nostro primo tema di approfondimento. Oggi in America il governo centrale, poco fa sta ancora parlando George W. Bush, ma ha parlato anche il ministro dell'economia, ossia il segretario del tesoro Paulson, hanno dato garanzie, hanno annunciato investimenti di centinaia di miliardi per mantenere una rete di protezione sul mondo bancario. C'è chi dice è una grande IRI americana per la finanza, può essere vero, vi assomiglia per alcuni casi, ma insomma questa notizia, oltre ai 50 miliardi erogati dal governo americano a breve e tutti i prestiti messi in campo oggi dalle varie banche centrali a partire dalla Federal Reserve, hanno fatto capire probabilmente al mercato che l'America va verso un enorme, gigantesco salvataggio soprattutto dei gruppi bancari. 349-238-6666 per i vostri sms e le altre notizie in breve. E allora, al di là di borse, di cui parleremo ampiamente, petrolio, Bush, Paulson e tassi, oggi affronteremo anche la vicenda dell'Italia, non è che ce la siamo dimenticata. In realtà, sull'Italia, oggi abbiamo avuto una notizia poco fa di una convocazione alle 17.30 dei sindacati, delle sei sigle sindacali con il commissario straordinario Fantozzi. Parleremo anche di Mediobanca perché oggi è stato presentato il piano industriale, il consigliere delegato Alberto Nagel ha illustrato le varie strategie, mentre sempre oggi, sempre in Italia, l'antitrust ha dato multe per 1.200.000 euro a quattro gestori di telefonia mobile, Telecom Italia, Vodafone, Wind e H3G, insieme con il fornitore di contenuti 09, tutte sanzionate per praticamente condotta lesiva della concorrenza. Tra l'altro, in materia di telecomunicazioni, oggi è stato ufficializzato l'accordo a Telecom Italia con i sindacati per 5.000 esuberi. Il Gallo potevamo utilizzarlo però anche per un'altra notizia: ordinativi fatturato dell'industria italiana a luglio più 4,7%. Attenzione però, per non creare anche confusione in chi ascolta, che quest'anno si chiuderà male, come dice Confindustria, probabilmente con una recessione tecnica, è innegabile. Poi possono esserci dei cambiamenti di dati congiunturali e vengono ben accolti. Chiaramente il fatto che il fatturato e gli ordinativi industriali a luglio siano cresciuti di circa il 5% è sicuramente una buona notizia. E allora partiamo con un aggiornamento, poi vi torneremo sopra su Alitalia, poi arriveremo ai mercati. Alitalia il giorno dopo la rottura. Dunque, se il ministro Tremonti dice la nazionalizzazione di Alitalia è impossibile, e Gianni Letta aggiunge non c'è nessuna alternativa alla cordata di CAI, il commissario straordinario, come ricordavamo, Fantozzi, ha convocato alle 17.30 i sindacati, ma alcuni voli oggi sono stati già soppressi, soprattutto nella tratta Fiumicino-Linate, mentre un vero e proprio boom di prenotazioni alle Ferrovie dello Stato, che hanno programmato per oggi anche due treni straordinari Milano-Roma. E nel frattempo c'è anche l'ENAC, che è l'ente nazionale che regola l'attività del trasporto aereo, che ha deciso di aprire un'istruttoria di, se abbiamo capito, di 7-10 giorni per accertare la liquidità di Alitalia. E poi ha lasciato molto perplessi anche una dichiarazione del presidente dell'ENAC Vito Riggio, che oggi in un'intervista ha detto attenzione, dal 2 ottobre l'Italia non volerà più perché il requisito per mantenere la licenza di volo di una compagnia aerea è di avere liquidità sufficiente per almeno 3 mesi. Siamo in collegamento con il presidente dell'ENAC, Vito Riggio. Buonasera presidente. La sentiamo un po' male, adesso stiamo migliorando anche la qualità. Allora, Presidente, innanzitutto è vero che dal 2 ottobre l'Italia non vola più? Ma io non l'ho mai detto, io ho semplicemente detto che da lunedì apriamo, appunto come lei ha ricordato, un'istruttoria formale cosa che avevamo già fatto nel periodo di transizione tra Prato e la vendita poi fallita Air France, che poi portò all'erogazione di un prestito ponte di 300 milioni proprio per adempiere alle prescrizioni del regolamento. Adesso avevamo dato una provvisoria per 6 mesi in presenza di una offerta, cioè di un piano finanziario. Abbiamo saputo tutti che questa offerta è venuta meno, quindi convochiamo il commissario perché ci dia conto della permanenza dei requisiti che il regolamento europeo impone a tutte le compagnie aeree. Non so da dove questa data del 2 ottobre sia venuta fuori, io ho sempre detto lunedì sentiamo Pantotti, speriamo che ci dica che ha liquidità sufficiente, se non ce l'ha evidentemente si crea un grosso problema perché non possiamo tenere una compagnia che non abbia i requisiti previsti dal regolamento europeo. Allora, quindi lei sta smentendo diciamo quanto titolava oggi quel giornale, ossia non è vero che dal 2 ottobre l'Italia non può più volare. Voi dal 2 ottobre aprirete un'inchiesta per capire i requisiti finanziari, perché deve... No, partiamo da questo lunedì, insomma, il 2 ottobre sì. Non vedo se potrebbe esserci un piano alternativo, si potrebbero vendere degli asset, attivare dei mutui, oppure potrebbe non esserci. Solo nel caso in cui non ci fosse, evidentemente si porrebbe il problema della revoca della licenza. Allora, vediamo di capirci, Presidente Riggio, perché noi sappiamo che esiste anche, cioè che questa regola della garanzia di liquidità è quella che viene poi applicata, lo dico anche a chi scrive, per esempio a certe compagnie low cost che alcune volte hanno lasciato dei dubbi, la garanzia della liquidità è una garanzia importante assieme a quella della sicurezza. Al 31 agosto all'Italia aveva, al 31 luglio, ultimi dati conosciuti, aveva in cassa 314 milioni, al 31 agosto ne aveva 205, al 30 settembre all'Italia dovrebbe avere a questo punto tra i 30 e i 50 milioni di euro. Le chiedo, siccome la stima è più o meno 1,5 milioni al giorno la perdita dell'Italia, se al 30 settembre avrà, poniamo anche la parte più alta, 50 milioni, a casa mia vuol dire che vola per massimo 20, che può garantire una disponibilità finanziaria per un massimo di 20 giorni. Se non fosse arrivata ancora una soluzione accordata, voi dovreste interrompere le operatività? Sì, guardi, il regolamento è molto chiaro, dice in qualunque momento l'autorità nazionale di vigilanza verifica lo stato finanziario delle compagnie e verifica se sono in grado di fare fronte ai propri impegni, ovviamente con particolare riferimento ai contratti di manutenzione, al carburante, ai pezzi di ricambio, e può dare una licenza provvisoria in caso di crisi finanziaria, legata però ad un piano di ristrutturazione. Quindi noi abbiamo già tolto la licenza ordinaria, abbiamo dal 2 settembre dato la provvisoria perché la nomina del commissario era già una dichiarazione di difficoltà finanziaria palese. Naturalmente il commissario, quando è venuto da noi a ritirare la licenza provvisoria, ci ha detto ho un'offerta di qualcuno che ricapitalizza, come è noto, per circa 1 miliardo e quindi rimette la compagnia nei termini. Adesso, venuta meno questa offerta, il commissario ci deve dare delle alternative, perché quella liquidità che lei ricordava è palesemente insufficiente per fare fronte a tutti gli impegni che una compagnia deve avere. Mi scusi Presidente, se perde 1,5 milioni di euro al giorno e voi avete bisogno di una garanzia di almeno 3 mesi, ho capito bene, di disponibilità finanziaria, 90 giorni fossero 1 milione, 90 milioni, siamo sui 135 milioni dovrebbe avere l'Italia, non li ha forse neanche adesso, quindi voi potete, potete scoprire già dalla prossima settimana che all'Italia non può volare? Potrebbe però il commissario dirci che sta vendendo degli asset patrimoniali o che sta accendendo dei mutui e quindi in qualche modo in questa maniera compenserebbe la situazione. Questo però è una sua responsabilità. Tenga conto che queste norme sono dettate in tutta Europa a garanzia della sicurezza del volo, quindi noi facciamo una doppia istruttoria. Intanto garantiamo l'assoluta sicurezza dell'Italia al momento, ma naturalmente nel lungo termine la sicurezza è garantita se ci sono fondi sufficienti per fronteggiare tutte le evenienze che sono all'ordine del giorno nella vita di una compagnia. Quindi il commissario deve in qualche modo dirci, in alternativa al piano che al momento non c'è più, che era un piano di acquisto e ricapitalizzazione, quale altro tipo di soluzione, se ce l'ha. Se non ce l'ha, evidentemente i nostri tecnici faranno una valutazione potrebbe essere anche una valutazione negativa, io mi auguro proprio di no, ma insomma questo è lo stato delle cose. Una risposta quando dovete averla? Ma guardi, lunedì noi appunto abbiamo fatto la convocazione. Fate la domanda. Lunedì cominciamo, lunedì sì. Adesso, e quindi poi probabilmente ci vorranno almeno una settimana, perché faremo un contraddittorio con l'azienda, insomma, che deve dirci appunto qual è la situazione di cassa e quali sono le azioni che intende intraprendere. Quindi diciamo entro 10 giorni noi sapremo se Alitalia vi garantisce una disponibilità finanziaria per 3 mesi oppure deve smettere di volare. Esattamente, questo diciamo è già accaduto in precedenza per alcune compagnie piccole in Italia. Sì, certo. Ecco, sulla sicurezza, visto che ce lo chiedono molti ascoltatori, io personalmente, conoscendo anche comunque la serietà, adesso parliamoci anche in maniera molto molto oggettiva, di chi vola all'Italia, dei piloti all'Italia, della manutenzione all'Italia, non ho nessun dubbio, però è giusto chiederlo a lei, perché io non conto nulla. Sulla sicurezza nulla viene messo in discussione, cioè il vostro è un problema di carattere finanziario, perché c'è una regola che vale per tutti. Non temete che vi possa essere diciamo una difficoltà nel mantenere gli standard di sicurezza all'Italia? No, anzi, guardi, il regolamento dice che la licenza provvisoria si può dare se non ci sono problemi di sicurezza. Quindi noi abbiamo valutato che non c'era nessun problema il 2 settembre e abbiamo per da quel momento continuato a monitorare con ispezioni anche a sorpresa. Devo dire che il livello dell'Italia in questo momento è più alto che nel passato. Insomma, non c'è la professionalità che la cura, che l'attenzione. Insomma. Bene. Grazie al Presidente dell'ENAC Vito Riggio e buon lavoro, poi magari ci risentiremo fra un paio di settimane quando avrete avuto la risposta dal Commissario Fantozzi o da chi starà gestendo all'Italia. Noi torniamo su Alitalia fra un'ora, perché tra 20 minuti inizia l'incontro e quindi un aggiornamento lo faremo tra circa un'ora. Adesso apriamo invece un'altra pagina del programma per quello che riguarda la notizia a livello internazionale sicuramente più importante della giornata, non solo l'operazione fatta dalle banche centrali, ma anche e soprattutto l'annuncio che in America, passatemi il termine, il governo creerà una grande IRI a obiettivo finanziario per raccogliere tutti i titoli delle banche, tutti i titoli junk, tutta la spazzatura, tutta la carta di cui le banche si sono riempite in questo momento, in modo da non farle crollare. Sarà un grande contenitore in cui scaricare la robaccia che si è acquistata in questi mesi e in questi anni. Dunque, se da lunedì scorso ad oggi le banche centrali hanno riversato sul mercato sotto forma di prestiti, sono soldi che poi si fanno ridare a breve ma con interessi molto agevolati, 500 miliardi di dollari, oggi la Banca del Giappone ha immesso liquidità per altri 13 miliardi, la Banca Centrale Europea per altri 40 miliardi e anche la Banca d'Inghilterra ha offerto 40 miliardi di euro. E poi la Federal Reserve ha annunciato di aver acquistato obbligazioni Fannie Mae e Freddie Mac. La SEC, ossia la Consob americana, l'autorità che vigila sui mercati, ha messo al bando tutte le vendite allo scoperto per quasi 800 titoli di società finanziarie e le ha messe al bando in maniera temporanea, fino al 2 ottobre. Ma la vendita allo scoperto è un elemento assolutamente speculativo che ha contribuito non poco a far crollare le azioni di molti colossi della finanza. Anche la borsa svizzera ha messo un giro di vite sulle vendite allo scoperto, che quelle, soprattutto quelle più aggressive, che avvengono senza l'assunzione in prestito dei titoli su cui si vuole operare, cioè sono vendite fatte senza però comprarsi i titoli, non a caso si chiamano naked short selling, vendite allo scoperto nude, senza diciamo il sottostante. Ma questa è l'attività delle banche centrali e degli organismi di vigilanza. L'elemento che ha creato euforia, il MIBT sta per chiudere con un 8% di rialzo, Parigi più 8,7, Londra più 8,7, l'America più 3,3, dicevo, l'elemento che ha fatto partire gli acquisti è stato l'annuncio che il governo americano sta mettendo a punto il piano per arginare gli effetti della crisi. Che cosa prevede questo piano? Prevede la creazione di un fondo pubblico nel quale appunto depositare i titoli a rischio delle banche. I titoli verrebbero temporaneamente congelati in attesa di un miglioramento delle condizioni di mercato. Una specie di congelatore, suggeratore, dove mettere i titoli in attesa che il mercato si placchi e torni a crescere. Misure simili erano già state adottate nella seconda metà degli anni Ottanta per fronteggiare proprio la crisi delle casse di risparmio, che allora costò 500 miliardi di euro di allora agli Stati Uniti, e lì venne creata la struttura Resolution Trust Corporation, che arrivò a gestire quasi 400 miliardi di allora, sempre di dollari, di titoli junk, di titoli spazzatura. E poi il Tesoro americano ha stanziato 50 miliardi di dollari per stabilizzare la situazione dei fondi mutualistici. Allora, facciamo una cosa, siccome la pagina è molto intensa e lunga, ascoltiamo il meteo e la pubblicità, poi sentiremo la voce del segretario, del ministro dell'economia, il segretario del Tesoro Henry Paulson, e anche quella di George W. Bush, forse, se non l'ascoltiamo più avanti, e cerchiamo di capire se sia un riposizionamento di livello e poi si tornerà a viaggiare in orizzontale, per dirla in un modo poco borsistico, oppure se veramente il mercato abbia svoltato, perché ha capito che l'America a questo punto non farà più fallire altre banche e dà una garanzia totale, cioè tutti i titoli più a rischio, più spazzatura, più carta straccia possono essere depositati in questo mega freezer dove essere ritirati quando le cose andranno meglio. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. ...17:34 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Molti messaggi che stanno arrivando sia sull'Italia ma anche e soprattutto al 349-238-6666 su questa mega operazione di salvataggio annunciata oggi in America. Alcuni di voi dicono, ecco, economia sociale di mercato, misura di sinistra. Voglio dire, diciamo misura keynesiana, così mettiamo tutti quanti d'accordo. Sicuramente è una misura in cui lo Stato entra con due gambe, non una, dentro la regolazione, più che la regolamentazione, l'attività normale, il rischio di perdere che si assume ogni soggetto privato anche nel mondo finanziario, e decide un salvataggio. Chiaramente non lo fa perché vuole salvare, o perlomeno noi così pensiamo, alcune banche importanti, ma lo fa per la tenuta complessiva del sistema, dopo che è da un anno che gli interventi della Federal Reserve di garantire liquidità, gli interventi sempre della Federal Reserve sui tassi, il piano fiscale di Bush non hanno sortito alcun effetto, cioè la situazione è andata via via peggiorando, via via avviluppandosi in un circuito assolutamente vizioso, e quindi occorreva una misura molto molto forte e significativa, come già Mario Platero, che sarà poi nostro ospite, ipotizzava qualche giorno fa. Sentiamo comunque l'annuncio del segretario del Tesoro americano Henry Paulson, il ministro dell'economia a stelle e strisce, l'annuncio di questo piano di salvataggio, questa IRI per la finanza. Questa mattina abbiamo adottato una serie di decisioni drastiche per aumentare la fiducia nel sistema, incluso un programma temporaneo per l'industria dei fondi mutualistici. Nonostante questi passi necessari, ora dobbiamo adottare altre misure decisive per affrontare la radice dei problemi dell'attuale crisi finanziaria. La debolezza del nostro sistema sono gli asset non liquidi che gravano sui bilanci delle società. Come tutti noi sappiamo, negli ultimi 10 anni le modalità dei prestiti sono state alquanto irresponsabili. Questo ha fatto sì che molte famiglie non fossero in grado di affrontare i mutui contratti. Sono 5 milioni circa i proprietari di case americani in difficoltà. Come abbiamo più volte detto, la radice dei problemi nei mercati dei capitali è la correzione del mercato immobiliare. Il governo federale deve implementare un programma di ampio respiro riguardante gli asset non liquidi che pesano sui bilanci delle società. Il piano implicherà l'investimento di soldi dei contribuenti, centinaia di migliaia di dollari, ma per la famiglia americana costerà meno di altre eventuali alternative. Ho passato il fine settimana a lavorare con i membri del Congresso di entrambi i partiti per esaminare i diversi approcci e alleviare la pressione in modo che ci sia di nuovo liquidità sui mercati. La salute della nostra economia richiede il lavoro di tutti per un'azione rapida ed efficace. Questa crisi ha messo in evidenza a chiare lettere che la nostra struttura regolatoria dei mercati non ha gli strumenti adeguati, è superata, non al passo con i tempi. Insomma, proprio in queste ultime parole di Henry Paulson c'era tutta la, anche l'autocritica. Questa crisi ha messo in evidenza, ha detto il segretario del Tesoro americano, i limiti, la debolezza, l'inefficacia del sistema di regole che governavano le transazioni finanziarie negli Stati Uniti. Sarà difficile, lo dico senza ironia, per molti liberisti convinti, per molti sostenitori dei Chicago Boys, per molti amanti della Reagan Economics, sostenere adesso che il libero mercato ha sempre ragione, visto che poi i disastri compiuti da certe banche e certi manager che spesso sono caduti in piedi sono poi stati accollati su tutta la comunità americana e da tutta la comunità americana con un salvataggio classico, con un intervento classico di carattere statale. E alla domanda chi paga questa misura ha risposto lo stesso Paulson, cioè avrà un costo per la collettività ma inferiore ai costi che avrebbe avuto la collettività americana se questi 5 milioni di famiglie che sono in estrema difficoltà nel pagare i mutui, perché le banche anche lì hanno alzato i tassi dei mutui, fossero saltate per aria, lì avremmo avuto 5 milioni di persone che non riuscivano ad arrivare a fine mese. E allora George W. Bush, che lascia un'eredità pesante secondo molti osservatori, non solo in politica estera, Iraq e Afghanistan, ma adesso anche un'America piegata nelle sue sicurezze e nella sua, diciamo, essere faro del libero mercato, del capitalismo efficiente ed efficace. Sentiamolo, ha parlato poco fa. Now is the time to solve it. Ora è il momento di risolvere il problema. Nella storia della nostra nazione ci sono stati momenti in cui è stato necessario unirsi, al di là delle divisioni di partito, per affrontare sfide importanti. È arrivato questo momento. Ieri sera il segretario Paulson, il presidente Bernanke e il presidente Cox si sono incontrati con i leader del Congresso. Apprezzo la volontà dei leader del Congresso di prendere di petto la situazione. Il nostro sistema di libero mercato si basa sulla convinzione che il governo federale deve intervenire sul mercato solo quando necessario. Considerata l'attuale situazione precaria dei mercati finanziari e la sua influenza vitale sulla vita quotidiana della gente, l'intervento del governo non solo è richiesto, ma è essenziale. Nelle ultime settimane il governo federale ha preso una serie di misure per promuovere la stabilità nell'economia globale. Per evitare sconvolgimenti disastrosi nel mercato finanziario, abbiamo intrapreso misure a riguardo di Fannie Mae e Freddie Mac. La Fed è intervenuta per evitare il fallimento di AIG e in coordinamento con le banche centrali, la Fed ha iniettato liquidità nel nostro sistema finanziario. Queste sono state misure indirizzate per evitare il contagio del sistema, ma occorrono nuove azioni. Dobbiamo affrontare le cause alla base dell'instabilità dei mercati. Sì, alcuni dicono, vabbè, è la classica socializzazione, nazionalizzazione dei debiti e invece privatizzazione dei profitti. Tutto il mondo è paese, aggiungo io. L'America è arrivata a questo, vi è arrivata, devo dire, dopo che la diga si stava letteralmente disfacendo, perché per un anno ha tentato con operazioni di garanzia di liquidità, di fare in modo che chi dovesse fallire fallisse, pilotare i fallimenti, mantenere in piedi il resto del sistema. Ma quando tre giorni fa si è visto che, nonostante il fallimento di Lehman Brothers, che a questo punto è una vittima di fatto perché tutte le altre le stanno salvando, ma al di là di Lehman Brothers crollavano, venivano quasi azzerati i valori di colossi come Goldman Sachs, Morgan Stanley, che non erano così esposti, si è capito che la piega era da panic selling, come si chiama in inglese, ossia panico da vendita irrazionale, in cui si va a vendere tutto con rischi che poi la situazione a spirale precipiti ulteriormente. E per dare l'idea del piano oggi annunciato dal governo americano, pensate che in valori attuali chiaramente vale 10 volte più del piano Marshall, quello che permise la ricostruzione dell'Europa, dell'area occidentale, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il piano Marshall, infatti, a valore attuale, allora valeva 17 miliardi di dollari, sono l'equivalente di 100 miliardi di adesso. Ebbene, questo piano complessivamente ne vale quasi 1000, perché tra una cosa e l'altra arriveremo a questa cifra, visto che sono 500 con aggiunte, vedremo quanti titoli verranno depositati, ma insomma sono 1000 miliardi di dollari, 10 volte il piano che permise all'Europa di rinascere dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. E Obama dice in sostanza, dà ragione al Tesoro americano e agli sforzi della Federal Reserve, ha detto positiva questa collaborazione bipartisan tra la Banca Centrale Americana e il Ministro del Tesoro Henry Paulson per far uscire l'America dalla crisi finanziaria, mentre McCain si sta smarcando perché ha bacchettato ieri il responsabile della SEC, della Consob americana, dell'autorità di vigilanza, Christopher Cox, per aver poco vigilato durante la crisi dei mutui e prima dello scoppio della crisi, e oggi ha bacchettato anche il numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke, dicendo che la Banca Centrale Americana non svolge più il ruolo per la quale è stata istituita. Ne parleremo più avanti con Mario Platero, perché si sta delineando anche un Obama più a difesa delle istituzioni, in questo caso è un McCain che invece va contro le istituzioni, Federal Reserve e SEC su tutte, più populista, più di pancia, meno legato all'establishment. Intanto cerchiamo di capire quanto durerà e se siamo di fronte a una sbronza da mercato che, a forza di essere obbligato all'astemia, poi schizza del 13% su Unicredit, del 13% su Banca Monte dei Paschi, del 13% su Popolare di Milano, del 12% su Intesa, oppure se un'operazione così massiccia, così imponente, storicamente mai vista dalla Seconda Guerra Mondiale, abbia fatto capire agli operatori che adesso l'America è intervenuta e non ci saranno più fallimenti bancari, tutti quelli che hanno spazzatura in portafoglio possono metterla in questo congelatore frigorifero statale. Giro la domanda al dottor Antonio Tonioli, che è responsabile della ricerca azionaria per Abax Bank. Buonasera Tonioli. Buonasera. Allora, è difficile fare previsioni anche perché poi venite massacrati, però secondo lei è un respiro e anche un movimento tecnico per cui qualcuno ci guadagna e anche parecchio, si riportano i titoli a un livello più plausibile, o lei vede la fine o l'inizio della fine, mettiamola così? No, beh, nel senso che sicuramente stiamo parlando di rimbalzo dopo le batoste dei giorni scorsi, quindi è inevitabile che questo ci sia. Ovviamente è molto importante il piano di, chiamiamolo, salvataggio della barra delle economie che gli Stati Uniti si apprestano a lanciare, è veramente imponente, impressionante. Non dimentichiamo che comunque ci sono due fatti da considerare. Il primo è che evidentemente, come si diceva prima, il paese più liberista del mondo sta nazionalizzando, e questo sicuramente dovrebbe farci riflettere sulla profondità e sull'importanza della crisi. E il secondo è che comunque, anche se mediamente stiamo parlando di un piano veramente importante, comunque i mercati sia quando sono ai massimi, ma anche quando sono ai minimi che risalgono, devono fare i conti nel medio periodo con gli utili delle imprese e col premio per il rischio che gli investitori intendono pagare. E qui il premio per il rischio, secondo me, anche se il piano è imponente, non si sa quanto sia, 3, 4, 5, 8, infinito, è proprio questo il punto che ci dà poi una misura della volatilità molto molto forte della quale stiamo assistendo in questo momento. Quindi secondo me si tratta di un rimbalzo, vedremo nei prossimi giorni se questo verrà confermato, ma comunque attenzione, perché l'economia sottostante non è, quindi l'economia reale non è ancora, mettiamo tra virgolette, usando un brutto termine, a posto, cioè vuol dire che sì, secondo certo. me il rallentamento economico europeo ci sarà lo stesso. E i prezzi delle materie prime restano relativamente alti, anche se non a record. Dopo le informazioni per chi è in viaggio, però vorrei capire da lei un paio di cose. La prima è se a scatenare gli acquisti non siano state anche alcune iniziative della Banca Centrale Svizzera e della Federal Reserve americana, che hanno di fatto limitato, bloccato, sospeso tutte le vendite allo scoperto, soprattutto quelle nude, quelle naked, quelle senza i titoli. E poi vorrei capire in realtà se al di là di questo mercato irrazionale poi non si inizierà a fare quello che gli americani chiamano stock picking, cioè a scegliere i titoli perché rappresentano società solide, che hanno begli utili, dividendi, così, e a lasciare per strada invece quelle più rischiose. Cioè se torneremo a un mercato che non si muove come un unico gregge di pecore o in un senso o nell'altro. Dopo le informazioni per chi è in viaggio, 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta. Avremo un mercato, dottor Tonioli, più selettivo? E soprattutto, quanto ha inciso da parte dell'autorità di vigilanza aver bloccato per alcuni giorni, soprattutto in America, le vendite allo scoperto che permettono in sostanza di vendere senza avere i titoli, senza aver comprato i titoli? Beh, sicuramente il blocco per alcuni giorni delle vendite allo scoperto è un fattore importante, nel senso che vuol dire che comunque le autorità sono pronte a intervenire con qualsiasi mezzo, anche bloccando le vendite allo scoperto, per far sì che i mercati non si avvitino su se stessi. Questo ovviamente i principali attori del mercato l'hanno interpretato come attenzione, perché potremmo anche prolungarlo estendendolo a tutto il mondo, quindi è ovvio che mi devo ricoprire immediatamente. Ma perché, perché secondo lei non vengono eliminate e basta? Cioè se questa crisi che sta pagando tutto il mondo è dovuta ad alcuni strumenti che poi trasformano i gestori in apprendisti stregoni, perché non riescono a controllarli, gli sfuggono di mano, non si capisce dove finiscano, fanno il giro di tutte le banche di tutto il mondo, vengono vendute impacchettate 10 volte. Allora, uno degli elementi più strani, che tra l'altro in molti paesi non è permesso, è questa cosa che io posso vendere un titolo senza averlo comprato, che a casa mia, cioè spiegarlo agli ascoltatori ci potrei mettere qualche ora. Allora, anche perché lei sa benissimo che né io né lei, se andiamo in banca e chiediamo di fare una cosa del genere, ci ridono in faccia. Allora, non si possono direttamente, secondo lei, eliminare questi strumenti che poi generano una grandissima leva finanziaria, come si chiama in gergo, quindi amplificano guadagni ma anche perdite. Riguardo alle vendite allo scoperto sono d'accordo con lei, cioè i principi di una sana economia vorrebbero che se c'hai i soldi, banalmente compri, se non ce l'hai non compri, e questa è una cosa. Altro conto è dire facciamo degli strumenti derivati e io non direi che sono tutti non corretti, che brutto, no, hanno la loro valenza e evidentemente vanno, uno, governati, due, bisogna capire cosa si sta facendo, tre, bisogna verificarne il livello di rischio. A queste condizioni ben vengano anche i derivati, cioè non è che tutti i derivati nel mondo sono subprime, certo poi quando i dati sono che l'ammontare complessivo mondiale dei derivati supera il PIL mondiale, allora qualche preoccupazione occorre averla, ma perché veramente è sfuggito di mano. Per cui sono due cose diverse. Vendita allo scoperto, sono d'accordo con lei, cioè se ho i soldi compro, se non ce l'ho non compro. Quindi questi sono i principi. E per quello che riguarda la seconda parte della domanda, cioè arriveremo secondo lei a un mercato che va un po' più, usa la testa e non la pancia, per cui va a scegliere i titoli sulla base anche dei fondamentali della società, dei bilanci attesi, del rapporto prezzo utile, dei dividendi che dovrebbero essere distribuiti, oppure secondo lei continuerà a muoversi come un gregge? Io spererei di arrivarci, anche perché insomma facendo l'analista finanziario è proprio il nostro lavoro scegliere, quindi fare stock picking su titoli o settori. Purtroppo temo che nel momento in cui sale tutto salgano anche titoli che oggettivamente non hanno motivo di salire e viceversa quando scendono. Spererei che i gestori, da una parte gli analisti finanziari e dall'altra i gestori, facciano veramente stock picking, magari anche andando a scoprire proprio titoli che sono stati veramente dimenticati, come si dice, da Dio e dagli uomini. Cioè, confidiamo, insomma, siamo veramente confident che questo possa succedere. Allora, i titoli dite voi, ci mancherebbe, adesso ve li diamo tutti. Mi interessava anche capire, per quello che riguarda le domande, molti di voi chiedono, ma insomma, che differenza c'è tra banca d'affari e banca normale? Vabbè, questo non possiamo, l'abbiamo già spiegato altre volte. Io direi una cosa, vediamo che cosa capiterà nei prossimi giorni, se è veramente un cambio di rotta. Volete sapere, molti messaggi chiedono di quanto è aumentata la capitalizzazione delle borse, visto che quando vanno male, diciamo, bruciati 140, per cui 140-150 miliardi bruciati, di quanto oggi sono aumentate, qua è aumentata la capitalizzazione delle borse. Dunque, il primo dato che abbiamo per quello che riguarda le borse europee dice che in sostanza la capitalizzazione delle borse europee è aumentata di solo a Milano di 130 miliardi di euro in un giorno. È il rialzo, quello di oggi, più forte da 10 anni a questa parte, quindi dal 1997. Attenzione però, perché se una borsa perde il 50% del suo valore, per riconquistarlo deve crescere del 100%, l'abbiamo spiegato molte volte a Salvadanaio e anche in altri programmi. Non è che se ho perso il 10 e guadagno il 10 torno a capo 12, così la mettiamo in maniera poco finanziaria. Occorre un guadagno molto superiore per tornare ai livelli che si sono persi. E allora vediamoli rapidamente. Io, mentre ringrazio il dottor Antonio Tognoli, responsabile di ricerca azionaria Abax Bank, questi titoli, non c'è molto da dire sui motivi. Quelli che più avevano perso, più hanno guadagnato. Unicredito e Monte dei Paschi più 13%, Banca Popolare di Milano più 12,4%, Intesa più 11%, Eni più 10%, Parmalat più 9,5%, Geox più 8,90%, Atlantia più 8,5% come Fiat e Generali, Tenaris più 8%, Ubibanca più 7,6%, Mediolanum più 7,5%, Enel più 7,4% e Bulgari più 7%. Ancora Pirelli più 6,48% e Buzzi Unicem più 6,3%, finiamo con quelli che hanno guadagnato il 6%, Impregilo più 6%, Seat pagine gialle anche il Banco Popolare. Unico titolo negativo, Finmeccanica, meno 2,4%. Ne riparliamo dopo il GR e torniamo anche sulla vicenda all'Italia e poi di nuovo all'iniziativa americana. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia, nel giorno in cui non sono arrivate grosse novità su Alitalia. Abbiamo avuto ospite il presidente dell'ENAC Vito Riggio, che ci ha spiegato che non è vero quanto ha scritto oggi un quotidiano, che in realtà non è vero che Alitalia smetterà di volare dal 2 ottobre. Però attenzione, siccome la legge prevede a livello anche comunitario che la compagnia debba garantire 3 mesi di liquidità, lui della prossima settimana incontrerà il commissario Fantozzi e si farà spiegare se questi 3 mesi di liquidità l'Alitalia li ha oppure no. Se non li ha, smette di volare tout court, quindi magari nemmeno il 2 ottobre. Altra cosa invece se Fantozzi rassicura l'ENAC dicendo che sta cedendo delle dei beni, sta chiedendo dei prestiti e quindi ha 3 mesi di liquidità. 3 mesi di liquidità con una compagnia che perde circa 1,5 milioni di euro al giorno, vuole dire a spanne chiaramente sui 135 milioni di euro complessivi. In cassa in questo momento l'Italia ne ha una settantina, ottantina, non di più. Però deve esserci ancora l'incontro, anche perché l'ENAC ha dato all'Italia a inizio settembre un permesso provvisorio per lasciare andare avanti l'operazione per volare nel nostro paese. Chiuso la parte dell'Italia, le notizie di oggi sono i mercati, ne abbiamo parlato ampiamente, più 8,6% a Milano, più 9% Parigi, più 6% Francoforte, più 8,8% Londra, l'America guadagna il 3,6%, Nasdaq più 3,3%. Che cosa è successo? È successo che, oltre a una grossa iniezione di liquidità americana, e cioè le banche centrali, non solo americane, anche giapponese ed europea, hanno deciso di garantire altra liquidità al sistema. Dicevo, oltre a questo, soprattutto, è arrivata la conferma che il governo federale americano sta organizzando un piano enorme di salvataggio, il tesoro per la precisione, di tutte quelle banche, quegli istituti che hanno dentro robaccia, titoli di carta, titoli spazzatura. Allora, forse è il caso di, visto i messaggi che stanno arrivando, di riprendere anche le fila di questo piano, di non confondere, lo dico a chi scrive, da un lato il fatto che le banche abbiano garantito una linea di credito importante, ma era già successo lungo tutto quest'anno. La Bank of Japan ha garantito 13 miliardi oggi, la BCE 40 miliardi, la Bank of England 40 miliardi. E poi importante anche che la SEC abbia messo al bando le vendite allo scoperto, ne abbiamo parlato prima, cioè quell'operazione che permette di vendere un titolo senza averlo comprato, e anche la Svizzera ha dato un bel giro di vite sulle vendite allo scoperto. Però, che cosa è successo a livello del tesoro? Beh, sentiamo, facciamocelo raccontare direttamente dal segretario del tesoro americano Henry Paulson. Questa mattina abbiamo adottato una serie di decisioni drastiche per aumentare la fiducia nel sistema, incluso un programma temporaneo per l'industria dei fondi mutualistici. Nonostante questi passi necessari, ora dobbiamo adottare altre misure decisive per affrontare la radice dei problemi dell'attuale crisi finanziaria. La debolezza del nostro sistema sono gli asset non liquidi che gravano sui bilanci delle società. Come tutti noi sappiamo, negli ultimi 10 anni le modalità dei prestiti sono state alquanto irresponsabili. Questo ha fatto sì che molte famiglie non fossero in grado di affrontare i mutui contratti. Sono 5 milioni circa i proprietari di case americani in difficoltà. Come abbiamo più volte detto, la radice dei problemi nei mercati dei capitali è la correzione del mercato immobiliare. Il governo federale deve implementare un programma di ampio respiro riguardante gli asset non liquidi che pesano sui bilanci delle società. Il piano implicherà l'investimento di soldi dei contribuenti, centinaia di migliaia di dollari, ma per la famiglia americana costerà meno di altre eventuali alternative. Ho passato il fine settimana a lavorare con i membri del Congresso di entrambi i partiti per esaminare i diversi approcci e alleviare la pressione in modo che ci sia di nuovo liquidità sui mercati. La salute della nostra economia richiede il lavoro di tutti per un'azione rapida ed efficace. Questa crisi ha messo in evidenza a chiare lettere che la nostra struttura regolatoria dei mercati non ha gli strumenti adeguati, è superata, non al passo con i tempi. And outdated. E qui c'è già un elemento di critica sulle autorità di vigilanza americane che non hanno saputo e sui regolamenti americani, e c'è l'annuncio di un piano che adesso ci racconterà Mario Platero, corrispondente sulle 24 ore dagli Stati Uniti. Buonasera Mario. Buonasera. E soprattutto un piano che vale, lo ripetiamo perché molti di voi ci hanno scritto, ma siete sicuri di quello che avete detto? Sì. Vale 10 volte il piano Marshall in termini reali. Il piano Marshall, quello che permise all'Europa di rinascere dopo la seconda guerra mondiale, valeva in dollari di adesso 100 miliardi di dollari. Qui, Mario, se abbiamo ben capito, si arriverà a 1000 miliardi, quasi 1000 miliardi di dollari. Visto che il piano è articolato, l'abbiamo chiamato una specie di frigorifero per i titoli di spazzatura, ti chiedo un minuto ancora di pazienza, le informazioni per chi è in viaggio e poi a te il racconto. E anche le reazioni politiche, Obama, McCain, su questa grande IRI della finanza per salvare le banche americane. Focus Economia. Now is the time to solve it. In our nation's history, there have been moments that require us to come together across. Ora è il momento di risolvere il problema. Nella storia della nostra nazione ci sono stati momenti in cui è stato necessario unirsi, al di là delle divisioni di partito, per affrontare sfide importanti. È arrivato questo momento. Ieri sera il segretario Paulson, il presidente Bernanke e il presidente Cox si sono incontrati con i leader del Congresso. Apprezzo la volontà dei leader del Congresso di prendere di petto la situazione. Il nostro sistema di libero mercato si basa sulla convinzione che il governo federale deve intervenire sul mercato solo quando necessario. Considerata l'attuale situazione precaria dei mercati finanziari e la sua influenza vitale sulla vita quotidiana della gente, l'intervento del governo non solo è richiesto, ma è essenziale. Nelle ultime settimane il governo federale ha preso una serie di misure per promuovere la stabilità nell'economia globale. Per evitare sconvolgimenti disastrosi nel mercato finanziario, abbiamo intrapreso misure a riguardo di Fannie Mae e Freddie Mac. La Fed è intervenuta per evitare il fallimento di AIG e in coordinamento con le banche centrali, la Fed ha iniettato liquidità nel nostro sistema finanziario. Queste sono state misure indirizzate per evitare il contagio del sistema, ma occorrono nuove azioni. Dobbiamo affrontare le cause alla base dell'instabilità dei mercati. Così, meno di un'ora fa, George W. Bush, che ha parlato oltre a Henry Paulson, segretario del Tesoro. Mario Platero, che cosa contiene questo piano e che... E come si stanno schierando i due candidati? Allora, primo, il piano è un piano, diciamo così, di riscatto che ha l'obiettivo di parcheggiare una gran quantità di questi titoli, fra virgolette, spazzatura, perché in realtà molti di questi titoli che, facendo di tutto un erbo un fascio, chiamiamo spazzatura, sono dei titoli buoni, sono dei titoli che hanno... gente che paga il suo mutuo, hanno delle case in ottime condizioni, quindi il problema è un altro, il problema è che c'è una crisi di liquidità che si è ingrippato il motore che faceva circolare questo mercato di derivati su mutui, derivati sui mutui immobiliari, credit, le protezioni diciamo sui i credit swap per esempio, no? I credit default swap, e quindi tutto questo meccanismo si è inceppato, risultato che anche se tu vai con un brillante meraviglioso e dici io questo lo do un dollaro, non c'è nessuno che è pronto a comprarlo, perché teme che nel momento in cui tocca il brillante muore. Ecco, questo per dare un'idea della situazione drammatica in cui si è trovato il mercato. Irrazionale, diciamo. E di questo parliamo da qualche tempo, perché anche nei giorni scorsi ti avevo accennato a questa idea, che poi non è un'idea nuova, è un'idea che ha radici sia nella Grande Depressione, fu congegnata da Roosevelt, si chiamava allora la Resolution Trust, dunque c'è stata la Resolution Trust Corp durante la crisi delle casse di risparmio negli anni 80, e c'è stata la Reconstruction Trust Corp invece negli anni 30. Adesso non sappiamo esattamente il nome finale di questa nuova Resolution Trust Corp, però è una struttura che parcheggia questi titoli e che liquiderà. L'unico parametro interessante, punto di riferimento credibile che abbiamo è quello del periodo 1989-1996-97, quando la Resolution Trust inglobò le attività di 730 banche, cioè 730 casse di risparmio, e liquidò a un costo complessivo di circa 400 miliardi di dollari le attività di queste banche, cioè le rimise poi in circolazione in modo graduale fino a che non furono riassorbite dal mercato e fino a che le cose poi non tornarono alla normalità. L'obiettivo è di fare la stessa cosa, e cioè di togliere da una parte alcuni strumenti tecnici, per esempio le vendite scoperte a breve, il cosiddetto short selling, che hanno massacrato i titoli bancari, perché nel momento in cui c'è un'offensiva concentrata tutta su un titolo di vendite scoperte, tu capisci che il titolo non può altro, non certo. può far altro che crollare, quindi un gioco speculativo al ribasso, soprattutto in un mercato di questo genere. Tolti questi strumenti di disturbo del mercato, a quel punto si dà la garanzia che ci sarà una certa tranquillità che eviterà di costringere chi ha delle scadenze immediate, chi ha delle necessità di ripagare o dei debiti, sto parlando naturalmente delle banche che sono esposte per centinaia di miliardi di debiti, di poter guadagnare tempo, di poter aspettare. Tecnicamente ancora non conosciamo tutti i dettagli, ma concettualmente il meccanismo è un meccanismo che in passato ha funzionato. La verità è che dare 85 miliardi di dollari, come si sono dati alla AIG, prendendola per dargli un appoggio con un prestito ponte, dare 30 miliardi di garanzia a JP Morgan, sono dei cerotti minuscoli su un mercato che ormai è di migliaia di miliardi di dollari. Quindi occorreva un intervento sistemico invece di interventi mirati ed episodici. E in questo devo dire c'è stata grossa responsabilità del governo americano, i candidati sono sostanzialmente d'accordo, lo stesso McCain peraltro aveva anticipato ieri l'idea di creare una struttura simile a cui lui dava un nome diverso, cioè era una Mortgage Trust Institution, la chiamava MTI. Allora, abbiamo un paio di minuti, Mario, ma molte domande che arrivano dagli ascoltatori. È vero che Lehman Brothers, sì, l'ha presa un po' in tasca perché è l'unica che ha pagato fino a, in maniera massiccia. E invece molti ci chiedono anche un commento che voli un po' più alto, ossia abbiamo visto Obama appoggiare sia gli sforzi congiunti del Tesoro americano e della Banca Centrale Americana, abbiamo visto invece McCain criticare pesantemente, oltre che la SEC, ossia la Consob americana, per aver mal vigilato in questi anni, anche la Federal Reserve ha sostenuto McCain che questa banca non svolge più il ruolo per la quale è stata istituita. Ma insomma, la domanda più forte che arriva è la fine dell'America che conosciamo dai tempi della Reagan Economics, in cui si diceva abbiate fiducia, lo Stato faccia un passo indietro perché poi il mercato si regola da solo, poi qualcuno fallisce, qualcuno va a casa, qualcuno guadagna, però è il mercato bellezza. Qui non è il mercato bellezza, qui è lo Stato bellezza. Che interviene per risolvere, come ha sempre fatto, delle situazioni di turbolenza di mercato o di crisi, ma l'idea è che sia temporaneo, cioè lo Stato bellezza o l'IRI, per dirla come la dicevi tu, sarebbe in effetti una svolta drastica nel modello capitalistico americano se poi queste attività di gestione restassero sotto la cintura del governo americano, ma questo in passato non è mai successo e non credo che succederà di nuovo. Ecco, aggiungo che quando ci furono altri interventi, ci furono per esempio i Brady Bonds a un certo punto per salvare gli Stati Uniti dalla crisi messicana, ci fu l'intervento sulla LTCM, erano interventi più episodici. L'unico sistemico di cui possiamo avere memoria a tempi brevi è quello della RTC relativo alle casse di risparmio. Però, ripeto, non si tratta di creare una superstruttura all'interno della quale ci sono delle banche, delle corporation che vengono gestite in base a interessi politici. La Reaganomics ha introdotto maggiore flessibilità di mercato, ma non ha cambiato la natura di fondo, il DNA dell'America e degli americani. che poggia e ha sempre poggiato su un'economia di mercato, anche ai tempi di Roosevelt. Chiarissimo anche questo ragionamento, Mario Platero, ti annuncio che molti ti vorrebbero candidato alla Casa Bianca perché una settimana fa vi annunciato e previsto il piano da 1.000 miliardi, non penso sia possibile, diciamo, anche per la tua cittadinanza. Intanto ti auguro buon fine settimana, e c'è chi in questo periodo di turbolenza finanziaria ritiene di poter fare anche degli acquisti, è niente meno che Mediobanca, per voce di Alberto Nagel. Riteniamo che la struttura patrimoniale, la struttura anche di leverage che ha la banca, ci consenta, diciamo, con selezione, con attenzione, di approfittare di alcune situazioni che sono epocali e che possono essere anche positive per chi fa concorrenza su questo mestiere. Quindi Mediobanca da questo punto di vista è posizionata in maniera utile per valutare opportunità di crescita, che possono essere anche relative a singoli desk, singole operatività e non necessariamente ad asset di dimensioni grandi. Così il consigliere delegato di Mediobanca Alberto Nagel, oggi è stato presentato il piano industriale. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, un ringraziamento a Gaia Romani, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione, a Pietro Lacorte per l'assistenza in regia. Buon fine settimana, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.